tocca la gamba, sì, e comincia la danza. Pazzesca, tutti insieme con un tarlo per la testa, ma chi sarà questa sera la sua nuova esca? Cala.